Il punto di Stefano Folli. Ora che il 2013 sta per essere archiviato e si dovrebbe aggiungere meno male, c'è da augurarsi che il 2014 sia molto diverso, perché difficilmente il paese potrà sopportare un altro anno così deprimente. Stagnazione economica, niente lavoro, soprattutto poche speranze. È una classe politica che parla molto ma realizza quasi niente. Quali riforme decisive per la vita quotidiana degli italiani sono state messe in opera nell'anno che si chiude? Meglio voltare pagina. Senza sorprendersi però se i sondaggi d'opinione fotografano il crescente discredito del Parlamento e dei partiti. Si dirà che non è proprio una novità. Certo, ma nessuna comunità organizzata può resistere a lungo se i rapporti di fiducia sono incrinati o inesistenti. L'Italia oggi ha bisogno di riforme che non siano solo annunciate, ma soprattutto chiede serietà a chi governa. Non è più il tempo dei veri o finti litigi televisivi e nemmeno dei giochi di potere. Questo Capodanno dovrà per forza essere diverso dagli altri.